Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuto al dottor Giorgio Guidetti, otoneurologo, presidente della Società Italiana di Vestibologia. Buongiorno dottor Guidetti, bentornato. Buongiorno. Dottor Guidetti, lei oggi deve aiutarci a capire che cosa ci succede quando avvertiamo quelle sensazioni un po' strane che descriviamo come vertigine, come testa piena, testa vuota, quella sensazione di, noi diciamo un po', di camminare sulle uova, a volte proprio al mattino iniziano o addirittura durante la notte quando cambiamo posizione. Dottor Guidetti, di solito diamo colpa alla cervicale, ma vediamo se è lei la causa di tutto questo. Aggiungiamo anche quel senso di fastidio, di orecchio pieno, a volte che è dato da un suono, da un fischio, da un battito che in termini tecnici viene chiamato acufene. Insomma, dottor Guidetti, la faccio lavorare. Va bene, allora cominciamo con le sensazioni che uno può provare. Dividiamole subito in due grandi tipi di sensazione. La prima sensazione può essere che al risveglio, nel tentativo di alzarsi, possa ricapitare una sensazione piuttosto violenta, in questo caso, di roteazione di tutto quello che abbiamo intorno, il lampadario, i muri, i quadri. Ecco, se questo succede e dura qualche secondo, è sempre, o quasi sempre, diciamo, indice di una sofferenza proprio del labirinto, cioè della parte interna dell'orecchio. E su questo dei grandi dubbi non ci sono, nel senso che se capita bisogna rivolgersi appunto a un vestibologo, perché si tratta quasi sempre di una cosa non grave e facilmente risolvibile. Bisogna rivolgersi ad un vestibologo, ma i nostri amici che stanno bevendo il caffè dicono: ma chi è questo vestibologo? È vero, è giusto. Allora, il vestibologo è un medico, abitualmente si tratta di un medico che è specializzato in otorino o in audiologia, qualche volta in neurologia, ma in linea di massima comunque di qualcuno che si è dedicato in modo specifico ai disturbi dell'equilibrio. In ospedale si possono trovare rivolgendosi a un pronto soccorso, mentre in linea di massima è possibile anche, per esempio nel nostro caso, noi abbiamo il Vertigo Center che è gestito primariamente da un medico come il mio caso, che ha una formazione di base audiologica e otoiatrica, ma che si avvale poi della collaborazione di neurologi, fisiatri. Certo, di altre figure. E poi comunque c'è un sito della Società Italiana di Vestibologia dove possiamo andare a sbirciare. Esattamente, questo permette di avere un'idea in giro di che tipo di situazione c'è. Dicevo, questo intanto medico, per acchiappare lo specialista giusto. Quindi, dottore? Quindi quando uno vede tutto il mondo girare, lì bisogna rivolgersi, perché è un problema che in qualche modo verrà risolto attraverso questa collaborazione con lo specialista. Se invece succede che uno si sveglia, si sente i muscoli contratti, un certo tipo di ubriachezza, ecco lì il discorso diventa sicuramente più complesso. Bisogna verificare se non ci sono delle problematiche di controllo della pressione, bisogna verificare che non ci sia stata una posizione scorretta nel dormire che abbia provocato una tensione muscolare del collo. Un esempio classico sono quelli che durante la notte digrignano i denti e mantengono questi muscoli contratti, poi si svegliano la mattina con questo senso di stordimento e di contrazione muscolare. Naturalmente anche delle gravi patologie cervicali possono dare questo senso di ubriachezza. In linea di massima questo fenomeno è molto più raro che non quell'altro, ecco. L'altro spaventa anche di più, perché uno comincia a vedere tutto che gira e dice: aspetta un attimo, cosa sta succedendo, mi spensi subito. Aspetta un attimo, aspetta me. Senta, dottor Guidetti, a volte capita che mentre stiamo dormendo cambiamo posizione e lì non sappiamo se stiamo sognando e vero, in realtà ci sembra di girare come delle trottole, insomma avvertiamo o una sensazione proprio di rotazione oppure come di inciampo. Che cos'è e da che cosa è causato? Ecco, questo di solito è il diciamo, anticipa quello che poi al risveglio viene avvertito nel modo che abbiamo detto prima. Si tratta quasi sempre di una patologia che riguarda, chiamiamola, la livella che abbiamo nell'orecchio, cioè è una specie di zona piccolissima, parliamo di millimetri, che legge la forza di gravità. È fatta da un piatto di gelatina con sopra dei cristalli. Ora succede che nella vita qualche volta questi cristalli si possono staccare per i motivi più vari e vanno a cadere al di fuori di questo piatto, andando a fare durante i movimenti dei falsi contatti dentro il labirinto, dentro l'orecchio, che genera quindi questa vertigine violenta. Si chiama, il termine tecnico per quanto riguarda il sintomo, si chiama vertigine parossistica posizionale, perché dura pochi secondi, è scatenata appunto dalle posizioni. E poi noi abbiamo usato a lungo un termine, un aggettivo aggiuntivo, benigna, per indicare che non nasconde generalmente malattie gravi. E la malattia di per sé invece si chiama labirintolitiasi, cioè vuol dire che si sono formati dei calcoli sostanzialmente all'interno del labirinto, in quel modo che abbiamo detto. E la fortuna vuole che da ormai da quasi 40 anni abbiamo messo a punto delle strategie che si chiamano manovre liberatorie, grazie alle quali è possibile in pochi minuti generalmente risolvere in modo completo e soddisfacente questo fatto. Quindi si effettuano delle manovre sul lettino che consentono di spostare questi cristalli che si sono staccati, questi calcoli che si sono formati, in una zona dove vengono eliminati e quindi il sintomo scompare. La manovra deve essere fatta da un medico, sempre da un vestibologo oppure da uno specialista, oppure possiamo provare da soli? Dunque, è un po' complessa la cosa. Diciamo che abbiamo detto che questi calcoli possono finire nei canali che sono intorno al piatto. In realtà si tratta di 6 canali, 3 da una parte e 3 dall'altra, ciascuno che è formato da più parti. Le manovre, per essere eseguite correttamente, bisogna che prendano in considerazione l'entità della presenza di questi calcoli, la zona esatta dove sono, e quindi non si tratta di manovre sempre tutte uguali e tutte, come dire, certo, possono essere imparate dal soggetto. È sempre opportuno rivolgersi a qualcuno appunto che si occupa in modo specifico perché faccia le manovre corrette. Sì, per certo, non disperdere i calcoli invece che eliminarli, ecco. Ecco, bisogna fare la manovra giusta, la mossa giusta. Dottor Guidetti, sarà capitato anche a lei sicuramente che un paziente sia venuto da lei in studio e le abbia detto: sa che cosa mi sento? Un po' come se camminassi sulle uova, quella strana sensazione che avverto quando magari scendo da una barca e beccheggio. Sì, esatto, è proprio una cosa molto comune. Possono essere tante le cause. Diciamo che il meccanismo è quasi sempre un errore nella lettura della forza di gravità, che poi fa riferimento. Nel senso che i sensori di forza di gravità sono come i piatti della bilancia, devono essere bilanciati. Se il piatto di destra, per esempio, non lavora come il piatto di sinistra, c'è questa sensazione di barcollamento, quindi di camminare su un piano non perfettamente pari, come succede quando c'è il mal di mare sostanzialmente. Esatto. E quindi i motivi per cui ciò può avvenire sono tanti, da uno semplice problematico, uno sbalzo di pressione, fino a malattie anche più serie. In questi casi bisogna sempre approfondire meglio sia l'entità del danno, sia la sede esatta, e quindi adeguare poi la terapia a quello che è il riscontro che ci è stato fatto a livello di diagnosi e di, sia, si dice, diagnosi topografica, cioè esattamente il punto esatto del danno, sia l'entità e quindi anche la natura. La terapia in questi casi cambia di molto a seconda del tipo di causa. Dottor Guidetti, a volte a questa sensazione si accompagna un problema uditivo. L'orecchio sembra, anche lì vado con delle espressioni che insomma non hanno niente di clinico, ma sento l'orecchio pieno o quella strana sensazione che avverto quando salgo un po' in quota, un fischio che a volte è sottile, a volte assomiglia più a un ruscello. Dottor Guidetti, che cosa mi racconta questo orecchio che sembra un po' ubriaco? È giustissimo, anche questo è un dato di fatto che spesso avviene. Allora, diciamo che l'orecchio, facciamo finta che sia una clessidra, è fatta da un'ampolla per l'udito e un'ampolla dell'equilibrio. È molto facile quindi che a un disturbo dell'equilibrio si accompagni un disturbo dell'udito e viceversa. Diciamo che quando c'è questa sensazione di pienezza, c'è soprattutto un rumore di qualche tipo, l'attenzione deve correre anche alla parte dell'udito, perché di solito questo è il primo segno di una iniziale sofferenza di questa zona. Ora, è vero che qualche volta è segno di sofferenza della zona, però tornando al discorso che abbiamo fatto all'inizio, non bisogna spaventarsi, intanto perché di per sé è raro che si tratti di patologie gravi che sottendono a questo sintomo. Poi può succedere anche un'altra cosa abbastanza comune. Dicevamo prima dei soggetti, per esempio, che si svegliano al mattino con la sensazione di ovattamento. Bene, basta domandare se sono persone che digrignano i denti di notte o tengono serrati i denti. Succede che la tuba d'Eustachio, che è il canale fra naso e orecchio, quello che si chiude quando andiamo in montagna, poi si deve riaprire, dobbiamo soffiare il naso forte per riaprire, ecco, quello è sufficiente tante volte, i muscoli contratti danno questa sensazione di ovattamento e anche un rumore di fondo all'interno dell'orecchio. Ecco, in questo caso naturalmente la terapia non è mirata su una malattia dell'orecchio, ma si tratta di rilassare la tuba d'Eustachio, magari l'uso di un bite se è un soggetto particolarmente ansioso, gli capita spesso. Non è sempre un indice esattamente di una malattia preoccupante. Meno male, insomma, ci tocca rilassare anche la tuba d'Eustachio. Guardi che ne abbiamo di cose da fare, eh? Anche lei si mette di traverso. Dottor Guidetti, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci spiegato e rassicurato. Le auguro una buona giornata. Ringrazio Carmelo Lauricella in regia alla parte tecnica, Alessandro Marco Tulli in assistenza, come sempre Laura Vanossi in redazione. Vi do appuntamento dopo il GR delle 12 per fare il punto sulle notizie che arrivano dal mondo della ricerca. E ancora subito dopo, nel pomeriggio, trovate le nostre interviste a tu per tu con gli esperti che ci spiegano e ci insegnano e ci aiutano a prenderci cura del nostro benessere e della nostra salute. Buona giornata. Giornata, vi aspetto, non mancate. Un saluto da Nicoletta.